Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando di prima mattina, buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sulla prima pagina online, quindi su internet, del Sole 24 Ore, o altrimenti digitate un motore di ricerca. Lo dico perché i commenti che stanno giungendo sono tantissimi, e visitatissimo come blog mi fa piacere, perché è un modo come un altro per innescare un circuito di legalità e di riflessione. Allora, come molti di voi sapranno, nel nord Italia, nel sud Italia e al centro si stanno susseguendo delle vicende sicuramente poco piacevoli, anzi deplorevoli, sulla pelle dei morti. È una parola forte, una frase forte, me ne rendo conto, però così è. Traffici loschi, loschissimi, che hanno spesso come protagonisti attori tra i municipi, tra le agenzie di servizi funebri, tra dipendenti di varie società, magari collegate in maniera diretta o indiretta al comune. Oggi abbiamo preso una storia tra le tante che ci giungono di una nostra radioascoltatrice romana, Silvana Biocchetti, che ci ha scritto una breve lettera ma accompagnata da una copiosa e precisissima documentazione che, come ha mandato a noi, ha mandato anche al sindaco di Roma. Abbiamo una nostra radioascoltatrice collegata ed è Silvana Biocchetti, alla quale do la buona giornata. Grazie. E abbiamo collegato con noi anche il direttore dei servizi funebri dell'AMA di Roma, l'azienda che gestisce appunto i servizi funebri della capitale, Vittorio Borghini, che è già stato nel passato nostro ospite. Buongiorno Borghini. Buongiorno a lei. Allora, Biocchetti, può raccontare brevemente la storia di cui è stata protagonista? Allora, il 18 agosto è deceduto mio padre, e prima di tumularlo ero andata al cimitero di prima volta a vedere se trovavo un loculo vuoto vicino a mia madre, insomma per avvicinarli, e ho trovato un recesso al piano di sopra. L'ho fatto presente agli uffici comunali e loro però mi hanno consigliato di comprare un loculo nuovo perché quello non era disponibile, e ho chiesto che cosa significasse disponibile e loro mi hanno spiegato che doveva essere controllato dalla sanitaria. Sì, quindi però il servizio, diciamo così, doveva essere a posto dal punto di vista igienico-sanitario. Igienico, diciamo. Esatto, e poi le spiego che comunque non è stato così. Dopo 10 giorni ho potuto comprare poi quel recesso. Sì, recesso vuol dire un loculo lasciato vuoto nel frattempo. Vuoto. Bene. Anche quello che avevo visto, eh? Sì. Pagandolo però come nuovo, praticamente 2.414 euro. 2.914 euro. 914 euro. Virgola 86 centesimi per la precisione. Sì. Esatto. Però in più ho dovuto pagare anche le spese maggiorate questa volta, di altre 508 euro. Sì. Praticamente a me un loculo mi è venuto a costare 5.207 euro anziché 3.205. Ecco perché, per sintetizzare un po' la storia, lei ne ha dovuto comprare uno nuovo. Sì. Perché quello cosiddetto in recesso non poteva acquistarlo. Però dopo cos'è successo? Dopo 10 giorni me l'hanno dato. Esattamente. No, me l'hanno dato però in condizioni disastrose, pietose, sporco e con una spaccatura in alto che gocciolava ancora. Ecco, e lei ha fatto presente questo anche con altre lettere. Sono andata all'ispettorato per farlo sistemare prima di tumulare mio padre. Ecco, questa è già una storia che, diciamo così, è abbastanza probabilmente comune in ogni parte d'Italia, non dovrebbe esserlo perché mi pare che ci siano troppi spazi di discrezionalità per chi dà questo tipo di risposta. Però la beffa, oltre al il danno che lei denuncia, è che quando lei è andata a restituire il loculo che nel frattempo aveva acquistato perché poteva avere quello in recesso, che cosa è successo? Volevo chiedere al dottor Borghini se voi considerate il loculo che ho riconsegnato come usato e me lo rimborsate al 50%, anche se dopo pochi giorni, io vi faccio notare che anche un recesso è usato. Chiariamo per i nostri radioascoltatori: prima un loculo pagato 2.914 euro, poi un secondo loculo, altri 2.914 euro, pratica sanitaria 367 euro, totale 6.196,72 centesimi, quindi circa 12 milioni delle vecchie lire. Alla signora Biocchetti saranno restituite, quando saranno restituite, 1.422,90 centesimi, quindi alla fine il pagamento di questo loculo supererà abbondantemente 4.770 euro. E dice la signora Biocchetti, che è una persona, diciamo così, di una certa età, non è certamente anziana, ma non è più giovanissima, questo le ha impedito di comprare anche la lapide al padre. La storia, cari radioascoltatori, non credete che sia così poco comune, purtroppo ne abbiamo moltissime di queste lettere e questo è un caso che abbiamo voluto prendere come simbolo. Allora, Borghini, lei ha sentito la domanda che le ha fatto, molto diretta, schietta e franca, la Biocchetti, cioè: ma non è usato quello, non era usato il mio? E oltre a questa domanda, alla quale le chiedo di rispondere, non le pare che appunto ci sia un po' troppa discrezionalità e qualcuno possa approfittarne per insinuarsi e fare dei traffici non propriamente simpatici? Prego, Borghini. Ne rispondiamo subito, ma prima faccio una domanda a lei. Dove sta la discrezionalità? Beh, la discrezionalità ad esempio è di un dipendente comunale che dice: le consiglio di andare a trovarne uno nuovo. Questa casa mia si chiama discrezionalità, Borghini? No, diciamo che forse il dipendente comunale non ha saputo usare le parole giuste. Eh beh, guardi che lei sta dicendo una cosa più grave di quella che ho detto io, quindi forse le consiglio che forse era meglio rimanere nell'ambito dell'espressione che io ho usato, discrezionalità. Comunque, allora, prego, Borghini. Il dipendente comunale ha solo spiegato alla signora che la salma in camera mortuaria più di 5 giorni non poteva sostare e quindi lei avrebbe dovuto entro quel termine trovare un'adeguata sistemazione, adeguata per i suoi gusti, ci mancherebbe altro. Allora, consideri una cosa: come in tutti i cimiteri d'Italia, la legge prevede che l'amministrazione comunale dia un servizio di degna sepoltura alle salme dei propri cittadini. Cioè, Borghini, questo lo sappiamo. Cultura a terra. Borghini, questo lo sappiamo. Borghini, questo lo sappiamo tutti. Andiamo alle domande, cioè, e alle risposte. No. Se lei lo sa, allora però dobbiamo fare anche un po' un. No, ma guardi che non lo so io, lo sanno tutti. Per i nostri ascoltatori. Ma questi lo sanno tutti. La degna sepoltura mi pare una cosa di comune civiltà, voglio dire. Non c'è bisogno che ce la spiegare. Arriviamo al concetto di degna sepoltura. Per degna sepoltura non si intende il loculo che voglio io, ma un loculo che abbia quelle caratteristiche che l'amministrazione sia in grado di potermi dare. Cioè, vuol dire che in quel momento quel loculo che la signorea voleva per sé non era disponibile, ma non solo non era disponibile per questioni igieniche, ma bisogna fare anche un po' di storia. Quel loculo è stato lasciato da una salma precedente, i parenti devono decidere che destinazione dare a quella salma. Capita spesso, per quanto riguarda l'amministrazione di Roma, ma penso che capiti anche per tutti, sì, gli altri. Sì, ma infatti lo diciamo in tutta Italia. Prima, in base dalla prima decisione che hanno i parenti, possono anche tornare indietro e chiederci di rimettere la salma all'interno di quel loculo. Noi aspettiamo che terminino le operazioni per essere sicuri che il loculo non verrà rioccupato dalla salma che c'era prima, per dirla banalmente, e da quel momento in poi lo rimettiamo in vendita, se no ci sarebbe il rischio che ci sono due salme che vogliono entrare nello stesso loculo. Borghini, io non metto in dubbio questa sua... Chiarito il concetto. No, lei ha chiarito intanto questa prima parte, va benissimo, però... Allora, la signora non poteva occupare quel loculo, né tantomeno poteva lasciare la salma in camera mortuaria. E questo ha l'abbiamo comprato capito. Un loculo con le stesse identiche caratteristiche, tant'è che quello che ha comprato all'inizio e che poi ha lasciato costava lo stesso prezzo di quello che poi è andato a comprare. Ecco, allora aspetti non un secondo, Borghini, un attimo. Usato in loculo nuovo. Ma allora Borghini mi faccia dice, Borghini scusi, glielo dice. Borghini scusi, mi fa fare le domande, altrimenti qui facciamo un monologo. Allora, lei dice non c'è differenza tra un loculo nuovo ed un loculo usato, ma allora perché il rimborso è la metà, ad esempio, cioè usato l'uno, usato l'altro? Sì, certo. Allora, mi faccio spiegare perché non c'è differenza tra un loculo nuovo e un loculo usato. Perché le tariffe stabilite dal Comune di Roma non fanno differenza fra un loculo che viene reimpiegato dopo 30 anni e un loculo che viene invece assegnato per la prima volta perché è stato costruito un mese prima. Non fanno differenza anche quando alla signora è stato dato un loculo che non era igienicamente a norma, come invece avrebbe dovuto essere, tanto che io davanti questo a me la lettera... Signora, mi dispiace contraddirla, però non risulta a noi. Ah, il beh, loculo certo. Era igienicamente in condizioni, se no non avremmo potuto procedere alla sepoltura. Scusi, non risulta a voi, però c'è una denuncia circostanziata della signora Biocchetti, la quale credo non abbia avuto nessun interesse a denunciare una cosa falsa, o allora, credo il contrario. Non voglio fare polemica, ecco, però la denuncia circostanziata non riguarda le condizioni igienico-sanitarie dell'oculo. Ma guardi, la signora io davanti... dice che lei ha trovato l'oculo in condizioni igienico-sanitarie non idonee. Non è vero, il loculo non era in condizioni idonee. Il loculo si presentava in condizioni, diciamo, estetiche non gradite alla signora, e per questo l'ispettorato comunque ha provveduto a un ulteriore intervento di manutenzione. Borghini, siccome lei mi sfida, a me piacciono le sfide anche perché le vinco quasi sempre, mi spiace contraddirla, perché c'è scritto nella lettera che lei ha, datata 3 novembre 2008, malgrado ho acquistato il loculo, sono 10 giorni, me lo hanno consegnato dopo un mese, facendomelo trovare oltretutto sporco e in pessime condizioni o è con una spaccatura in alto. Mi sono arrabbiato, ho dovuto fare intervenire l'ispettorato. Borghini, lei le lettere le legge? Certo che perfetto, mi fa piacere. E le dico anche che siccome l'ho letta la lettera e ho fatto poi i miei dovuti accertamenti, l'ispettorato mi ha detto che ha fatto un ulteriore intervento di manutenzione dietro richiesta della signora, ma non era l'intervento di manutenzione ordinario, cioè il loculo non stava in quelle condizioni come diceva la signora, cioè in pessime condizioni. Il loculo è nelle stesse identiche condizioni con cui vengono dati tutti gli altri loculi. Beh, allora complimenti. La signora non le ha trovate di suo gradimento. Complimenti per come li complimenti per come li consegnate, allora. Intervento ulteriore di manutenzione. Dico complimenti per come li consegnate, visto che costano un occhio della testa. Comunque a questo punto la trasmissione è terminata, io do appuntamento purtroppo ad altre nuove puntate di questo genere, perché è giusto fare luce su questi episodi. Grazie in regia Giorgio Mattei, in studio Laura Faginne, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.